Pista 49. La miscela intanta mora, la miscela mordiglio muovo, si me mira, si me besta, la miscela seras mi amor. What?